chile. Aquí hay chile con carne. Tenemos papas con chile, jalapeño, morrón, calabrese también. Frijole con chile, carne con chile, tacos con chile. Habanero, tamales, sé que quiere toda comida picosa. Sí, ma, ¿qué se maña? Tenemos jalapeño, morrón, calabrese, habanero, chile panca, chile de Sinaloa, chile de Cutumán, sopa con chile. Ma que es todo picante. No, no es solo picante, es todo rebelde. Domenica 28 settembre, seconda sagra del peperoncino rebelde al CSOA Forte Prenestino. Dalle 13, apertura degli stand, piatti piccanti a base di peperoncino di ogni sorta. Nel pomeriggio, lettura fiabe zapatiste Otros Cuentos, riffa solidale, degustazione e competizioni a base di peperoncino, spettacolo di danza aerea, proiezioni, video, banchetti e mostra sul Mexico rebelde. Dalle 19, aperitivo piccante e gara di cumbia. Alle ore 20, cena del fuego, sapori dal mondo. Per tutto il giorno reggae, roots, cumbia, arancera e cantinera con Radio Torre Q, La Esquina del Sol, Pinche Perro, De Fomenti Bus Selecta. In concerto, Lo Tres Altos e Porco Nero. Seconda sagra del peperoncino rebelde, domenica 28 settembre al CSO Forte Prenestino a partire dalle 13. Parece che tra i crescenti il rio sta todo dar para ponerse a pintar.